Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Oggi abbiamo con noi degli ospiti molto particolari che si presenteranno da soli. Buon pomeriggio a tutti, io sono C e rappresento il gruppo Indie Gnabo della rete Loyola. Venite a trovarci al centro Poggeschi e se volete conoscerci meglio potete consultare il sito www.reteloyola.it. Ma tornando a oggi, siamo qui in radio insieme a M e Ciccio e parleremo con loro della loro vita. Sono ragazzi che sono nella comunità pubblica del Centro Giustizia Minori Bologna e faremo una chiacchierata con loro. Allora ragazzi, presentatevi un po', salutate. Io mi chiamo Ciccio. Io mi chiamo M. Io sarei curiosa di conoscere una vostra giornata tipo. Ma niente, la nostra giornata parte la mattina, ci svegliamo, facciamo colazione. Una volta finita la colazione torniamo in camera, sistemiamo la nostra camera, i letti, puliamo a terra. E niente, una volta finito questo si fanno le varie attività. Ok, e ci sono delle attività in particolare, ovvero come passate il tempo in comunità? Cioè non mangerete soltanto e pulirete, insomma? Sì, facciamo il laboratorio di riciclo, cioè una signora che viene e porta dei materiali che andrebbero buttati e noi ci facciamo varie cose, tipo anche costruire oggetti, decorare scatoline, cose così. Mentre tu, Ciccio, fai qualche laboratorio particolare di cui vuoi raccontarci? Sì, faccio un laboratorio di arte terapia. Niente, disegniamo quello che ci viene in mente. Niente, poi questo insegnante di arte terapia, chiamiamolo così insegnante, legge i nostri disegni e ci dice cosa ha capito di quello che noi abbiamo disegnato. E non ti mette in soggezione il fatto che qualcuno, no, capisce da quello che disegni chi sei, quello che vuoi fare, cosa pensi? Cioè, a me metterebbe un po' di ansia questa cosa. Ma la verità, a me mi fa piacere questa cosa, per capire, per vedere se qualcuno capisce veramente quello che io ho in mente. Ho capito. Senti qui, invece avete dei tempi morti, insomma, e nei momenti vuoti create delle amicizie, giocate, cosa fate? Ma nei momenti morti o usciamo con gli operatori, ci facciamo un giro. Parliamo un po' tra di noi, giochiamo un biliardino. E all'interno della comunità siete riusciti a stringere dei legami, delle amicizie fra di voi? Com'è il rapporto fra di voi? Il tempo tra di noi lo passiamo abbastanza bene. Un esempio, in camera mia, con il mio compagno, che sarebbe anche il mio compagno che ora è qui di fianco a me, diciamo che qualche litigio c'è, però tutto bene. Sì, è un po' così ciccio, però dai, alla fine si riesce sempre a trovare una soluzione. Con noi adesso in camera abbiamo scritto un foglio con tanto di firma, con varie regole per vivere bene insieme. Anche se queste regole non molto spesso vengono rispettate. E niente, abbiamo un esempio di questo regolamento. Abbiamo cambiato la disposizione della camera come voleva M. Però ci siamo promessi che non dovevamo più darci, non dovevamo più disturbarci a vicenda. Ci si prova ad andare d'accordo, però molte volte è un po' così. Va bene, dai, penso che possiamo far sentire un po' la nostra musica ai nostri ascoltatori. Che canzone mi consigli? Criminale di Maruego. Nato per correre, non camminare, vie da percorrere, lascio polvere lungo le strade. Faccia criminale, mi lascio giudicare, tanto non importa dove vieni o dove vuoi arrivare. Che tu sia rumeno, o negro, o bandolero, marero, o che tu sia maruego, a loro non importa chi tu sia davvero, importa quando saremo dentro e quanto ci staremo. Io sono stato dentro, sai che non mi vanto, mi dispiace per mia madre, per ogni suo pianto, per quanto ha sofferto. Sì, perché le lacrime di mamma valgono un miliardo. E barba e vesto, ma c'è cresco, criminale. Mentre riesco torno presto come mio padre. Se voglio il fresco, voglio letto, una vita normale. Questi mi voglio dentro, mi voglio criminale. Qua la vita non passa mai. questo cabrioletto, una vita normale. Questi mi vogliono dentro, mi vogliono criminali. I veri criminali hanno la laurea, stanno in aula, fanno rispondere la segretaria. Alibi di ferro all'avanguardia, paga lo straniero. La verità brucia come gli avanero, ma non si è mai vista giustizia come un papa nero. Perché ha tirato due piste, gli han detto pistolero. E per il hook da mo muovono per mangiare un po', perché se no muoiono. Ma un giorno un lavoro troverò e a quel punto smetterò. Sì, come no, sì, corre il vesto, sì, voce cresco, no, sì, criminale. Entro il desco, torno presto come un mio padre. E voglio il fresco, il mio letto, una vita normale. Questi mi voglio dentro, voglio Eccoci di nuovo in studio. Niente, hai qualche altra domanda per noi? Sì, sì, sì, sono molto curiosa quest'oggi. Allora, avete parlato di un regolamento fra voi due, però io so che all'interno della comunità avete anche delle altre regole, insomma, un po' più pesanti da rispettare, no? Per vivere tutti insieme. Ecco, io volevo chiedervi quali regole ritenete difficili da rispettare? Beh, tipo anche una banale. Sono le sigarette. Abbiamo solo 10 sigarette al giorno e solo di Winston Blue. Oppure la barba. La barba mi sembra la cosa più strana che esiste proprio. Ci dobbiamo fare la barba solo la mattina, perché dicono che il pomeriggio diventiamo pazzi. Ancora ci ammazziamo con le lamette. Questa cosa non me la sono ancora spiegata. Però sto combattendo per questo, per far fare anche la barba il pomeriggio. Grazie. E c'è invece una regola che, se anche ritenete difficile, però siete consapevoli del fatto che è importante rispettarla per riuscire a stare bene tutti insieme? Questa regola è una bella regola molto importante, l'igiene. L'igiene, sono pochi quelli che la rispettano ed è una cosa che si deve battere su. Tipo, per esempio, rispettare gli altri quando ti fai la doccia o cose varie, perché cioè a volte si trovano i bagni in condizioni non accettabili, oppure lasciano tutto allagato, o i vestiti sul termo o in giro, oppure lasciano dei ricordini. ma non ne parliamo poi dei pentolini, lì non si scherza proprio. Lì la gente si cuoce il latte e rimane tutto com'è. Eh sì, anche tipo quando uno usa la lavatrice che lascia per un giorno e passa i suoi vestiti lì e si dimentica e si lamentano se li ritrovano in corridoio sparsi. Evidentemente gli piace avere i vestiti marci. O se no anche tipo i muri sporchi di budino, olio, cose varie. Ma secondo me lo fanno per arte. Sì, io ieri ho attaccato uno spaghetto sul soffitto e ancora l'ho attaccato. Vabbè, ognuno lascerà la sua impronta. Cari nostri ascoltatori, ora vorrei lanciare una canzone che a me piace molto. Questa canzone intitolata E nu jurnu bun, introdotta da Rocco Hunt, secondo me è una canzone che ha del significato. Parla del sud e del nord, che tra di noi non devono esserci conflitti, dobbiamo essere tutti uguali. Allora ve la faccio ascoltare, mi raccomando. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, La mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori. Siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata. Vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada. Il mondo si è fermato in questa splendida giornata. E lui Yorubu, stamattina mi ha scelto su. Adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così. Ogni cosa comincia perché vado a fornire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabriele, se dormo un po' pochetto. Non sapevo le problemi, non sapevo chi sti scemi. Non sapevo capire, rotto c'è un po' da fare. Bacio a mamma mia, già fanno dei fei servizi. La principessa, la miseria, mi sono una succunizia. Barata piccolina, che non suona, si realizza. Ti cancellasse tutte le rughe e tutte cose triste. Hey, hey, dimentica di andare fuori per lavoro. Le nuove aziende fioriranno nel tuo territorio. Dimentica le banche, li presteremo noi a loro. Zero padroni, gli ruberemo il trono. Non c'è la fila allo sportello. Se tifi un'altra squadra sei lo stesso mio fratello. Fate l'amore invece di impugnare quel coltello. La violenza è stata sempre il metodo di chi non ha cervello. Tagliate quella linea che divide nord e sud. Guarda il cielo per cercare chi purtroppo non c'è più. È un giorno nuovo anche per loro. E son sicuro che un sorriso l'ho strappato pure a voi lassù. E lui Yorubu, stamattina mi ha scelto su. Adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così. Ogni cosa comincia perché vado a fornire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabriele, se dormo un po' pochetto. Non sapevo le problemi, non sapevo chi si scemi. Non sapevo capire, rotto c'è un po' da fare. E lui Yorubu. And we on the boat. And we on the boat. And we on the boat. And we on the boat. Stamattina m'ha scelto su. Adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così. Ogni cosa comincia perché vado a fornire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabriele, se dormo un po' pochetto. Non sapevo le problemi, non sapevo chi sti scemi. Non sapevo capire, rotto c'è un po' da fare. Questo posto non deve morire. La mia gente non deve partire. Il mio accento si deve sentire. A mio zig si scelta matì. A Gennaro che ha avuto creatura. E pisciaiole, fruttaiole. Per tutta la gente rorio. Ok, siamo di nuovo qui. Ci hai qualcos'altro da chiedere? Sì, certo, lo sapete che la mia curiosità non ha limiti. Allora, in comunità io so che non siete soli, no? Che avete delle figure che vi accompagnano in questo percorso. Ce ne parlate un po'? Allora, ci sono polizia penitenziaria che praticamente guarda dalle telecamere cosa facciamo noi e cose così. Come una specie di grande fratello. Poi, dopo la polizia penitenziaria, vengono gli operatori e mettiamo a loro livello anche i tirocinanti. Anche loro ci controllano, ma diciamo in diretta, cioè di persona. Niente, con questi operatori delle volte ci giochiamo anche insieme. Ci divertiamo molto con loro. Qualche volta ci divertiamo, ma qualche volta ci fanno arrabbiare. Abbastanza, tanto. E dopo gli operatori vengono gli educatori, che quando abbiamo dei problemi, cose così, andiamo da loro a parlarne. Si trova una soluzione, o se no, se dobbiamo fare qualche spesa, cose così, dobbiamo parlarne prima con loro. Diciamo che gli educatori sono molto comprensivi, eh. Ogni tanto ci fanno anche dei complimenti per come ci comportiamo. Ogni tanto qualche cazzatone. Abbiamo un operatore, un educatore a testa, che ogni ragazzo viene seguito da un educatore. Tutto il percorso penale fino a che non se ne va dalla comunità. Dopo gli educatori c'è la dirigente, la direttrice. La direttrice, diciamo che è quella che dirige la comunità. Quella che dirige la comunità, anche con la direttrice abbiamo, diciamo che abbiamo dei contatti. Anche lei è molto comprensiva, è una brava donna. E niente, se c'è qualche richiesta possiamo anche chiederlo a lei. Sì, per esempio il venerdì noi facciamo una riunione il pomeriggio con la direttrice, in cui organizziamo il weekend per le varie attività. O andare al cinema o mangiare la pizza, cose così. E niente, dopo la direttrice chi viene? M? La dirigente, che dirige varie comunità. E niente, dirige pure la nostra. Però con lei non abbiamo contatti. No, no, niente contatti, cioè l'abbiamo vista tipo due volte e basta. Eh no, diciamo che è una signora molto riservata. Top secret. Ah, e dimenticavo di dire una cosa sulla polizia penitenziaria, che quando rientriamo che si sta di da soli, tipo a fare dei colloqui fuori, non accompagnati dagli operatori, ci fanno perquisizioni, o se no, se hanno qualche sospetto su di noi, tipo la direttrice, cose così, gli dà il compito di fare perquisizioni in camera tra le nostre cose per vedere un po' la situazione. Esatto. Va bene, adesso facciamo un altro stacco, vi lasciamo con un'altra delle nostre canzoni. Questa canzone si intitola Rovine di Mamma Marias e Clementino. La gente è agita, te ne sta capacità, acida voracità. Scusa, non ne chiede fa, usa tanta ilarità. Pure si può, te ne ne età. Mentre si corica, tendo l'oscurità, intento a buona manna. E cosa brutta là, ma posso smonta ca. Sfide bisogno, già sono pronto pa' busca. E capite che mentalità? Sto stati da fogne l'Italia, centro la campagna. Si può vedere l'underground, basta che scende scala. Porre po' slang è favorito, a fatica non c'è sta. Porisce a casa, trova chi sa droga e chi sa cal. Iena man fa na can, rato mo pulsante ca mi scopina, chiedo man. No. Tra un'amica che ha fatto, vuoi una vita che ha schiatto, però hai capito che ha fatto. Alla rovina la non vega giù, dica solo polvere fuorigine, all'origine era civiltà. Leggiamo a buccione, stupin da ste spuccia, solo le miti de grigie, sbiadi, de spari, de flop. Ricordi di un'antica da vita, non è come prima, va vivendo dalla rovina. Cena nel chiarecino si capita ancora. Il cielo s'agita, cangiando culo. Vivi in the rovin, serve una dottrina. Non ci serve l'indovin, né polis, né corrispetto sism. Che non rischia, chi hanno arrivo fino a fino lo film. Ma veste nero come a Kenny Reeves. Welcome to the dream, smoca, wake a green. Per non ci pensare sicuro va recuperato, sì. Vida loca quando coca buona roba nuova. Ancora ruota d'alta quota, balla al soca qui. Rosini Terenola, ci chiamano in scarpissa santa. Peace and love, no pin fam, sorrisi in franta. Pure stasera sorrisi in bianco e sente magna, senta mamma ta cacciagni in do bagna. E non canta elefante, più pesante, roba se l'elefante. Fino a quando in decasso rosteria, miseria diventa una massima seria. E adesso accomodate, guarda il mondo come in moto voglio raccontare quale è la verità. Perché mi hanno rovinato cielo e sta città. Se questo non è il verso, scopri il senso. I moto voglio raccontare qual è la verità. Perché mi hanno rovinato uscire sta città. Mamma Maria Cleme Iena Pio Sci Squarro Mobile. Siamo di nuovo in studio. Allora, ragazzi, per salutarci vi farei un'ultima domanda, perché forse non siamo stati molto chiari con i nostri ascoltatori. Ovvero, ci raccontate un attimino cos'è questa comunità e un attimino come funziona? Sì, praticamente Vabbè, noi siamo qua perché abbiamo commesso dei reati. Niente, qua si sta in attesa del processo. Poi o c'è chi va a casa, c'è chi va in un'altra comunità, o se no, nei peggiori dei casi, in carcere. Diciamo che tutte queste cose vengono decise dal ragazzo. Dipende tutto da come uno ci si comporta. E ora che vi ho fatto sapere un po' come funziona la nostra storia, niente, io vi saluto, un grande saluto da Ciccio. E ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da M. Ciao ciao. Ciao a tutti anche da C. Vi saluto anch'io, che sono Eleonora la tecnica, e ci sentiamo la prossima settimana. Ora vi lascio con la canzone A Sorpresa. You gotta be fucking kidding me. Go, go, go.